Sul selciato occorre più peso per dimostrare in pieno che chi fa sta roba ci crede sul serio. Dimmi quante vittime stranate, quante quelle derubate, credevano in un sogno ma sono state cancellate, comprate pedine controllate da un boss losco con asso. Dimostriamo sta lealtà da basso, proteggendo ciò che sentiamo nostro, difendendo tutto questo ad ogni costo, giorno dopo giorno, più impegno per competere, sopravvivere e conoscenza delle regole. Quattro discipline, rami dello stesso fusto, quattro forme d'arte che approdano al successo. Parla di moda, l'hip hop c'ha una storia e quindi è una cultura, capo. Più peso, più peso, più peso. Sul microfono voglio più peso. Più peso, più peso, più peso. È sul pavimento che voglio più peso. Più peso, più peso, più peso. Dietro i piatti io voglio più peso. Più peso, più peso, più peso. È con lo spray che voglio più peso. Per ogni rider che con lo spray si batte contro l'ignorante, che getta calce su sta forma d'arte, cresce la fama, il colore viaggia sulla strada. Le critiche, se l'arte è un delitto qualcuno lo perdoni, esprime la sua anima usando i suoi colori. Per ogni DJ che dà un senso a ciò che fa, più fleva quando suona dentro un club. Quanti beats smontati, stravolti e risuonati, quanti ben mixtape, prodotti ben farciti, scratch originali unite a tagli eccezionali, girano i vinili, si consumano i cursori. DJ sui tecnici, quanta abilità, chiedetegli più peso e vi daranno il funk. Più peso nei pavimenti e dentro ai cerchi, da chi migliora la qualità dei movimenti, impegno, sudore, sforzi, gli allenamenti, solo corpi che ballano, pochi discorsi. Voglio MC umili, responsabili, visto che dopo tutto disporranno di microfoni. Questo è l'hip hop, evoluzione senza fine, rimboccati le maniche e inizia a lavorare. Più peso, più peso, più peso. Sul microfono voglio più peso. Più peso, più peso, più peso. È sul pavimento che voglio più peso. Più peso, più peso, più peso. Dietro i piatti io voglio. Più peso, è con lo spray che voglio più peso. Voi da noi volete più peso, noi da voi vogliamo più peso. Voi da noi volete più peso, noi da voi vogliamo più peso. Più peso, più peso, più peso. Più peso, più peso, più peso. Più peso, più peso, più peso. Più peso, più peso, più peso. Più peso, più peso, più peso. Più peso, più peso, più peso.